papani, primulani coși. Brața lui vicinu, tot pucano, lucanu și nicuțu. Păi moțu pa la versariu, șofiteși. Vrea să știi banionii, lumaru, ce se pricreși ținițu. Păi moțu pa gali, spația mă zgărari. Miște undi și banionii, ca ăștia meno, nu sunt ori. Sentițu, păi moțu pe tutti, ieftinii bandieri. Pi lumaru, ce tutti, quanti ni pazzi lucori. La domenica, tra casa, non ci posso trovi a stari. A giaciri, a lucan, pe lumaru, ce già ti pari. Anche i mutili, magni, ganna, spitti rari. Supamo cu tutto l'ugori, vina, squadra eccezionale. E zittata la partita, lui è pulsa a cammina. Vina, fasciallo, tra lu palloni, sempre gira. Intanto noi a cantare, senza fermarci no. Fategli sognare, Maruggio faccio un gol. Zumpa il res è arrivato, senti bueno come pompa. Lottarazzo lì di fosi è venuto qua bu canta. Maestra camu bu zumpamu capi bu lì bu conta. Voi spaccati lì da pasce nudi qua da una spenta. Lo pomu casi ozza come quando brucia stroma. La curva che sta ferve aspetta che si segna prima. Partimo in contropiedi, c'ha la zione si standrizza. Partim da cannonata e porta che strazza la resa. Zumpamo zumpapani, primula li cosci. Brazza lu vicino, topu cano, lucano sci di gu. Zumpamo zumpa l'avversario, soffitesci. Grazie sti bagnoni, lumaru, c'è sempre crescissimi. Zumpamo zumpa gali, spatti a mascherrari. Viste i undici bagnoni, casta meno non su dori. Senti zumpamo zumpa e tutti gli esti di bandieri. Pilumaru, c'è tutti quanti ni pazzi lucori. Gol, yeah! Ama segnato uno la partita di studi fumalato. Questo sport facciamo Romano giù di fauni. Ma nell'aria za un bom bom bom. Sta suonamo e sta cantamo. E vejo un pitturare e pura basciamare. A ruota bandiere giallo blu, giallo blu. Lufo con questa brucia Romano giù questa sciola. Pure noi insieme a voi pista squadra tamo l'anima. Passatemo sta palla pure via già a segnare. Con tutti li marugi si qua la ma cantare. La squadra ne emoziona e non tengo più parole. Di Nimo Lumaruggio e lu pallone tra lu cuore. La difesa sempre in guardia, lu portiere sarà ginesca. Di ladre e quarti parti, una bomba che si innesca. Anzi pronto l'attaccante che segna con la mina. Questo gol è più bello di Guttu di prima. Zumpamo zumpapani, primula li cosci. Brazza lu vicino, topu cano, lucano sci di gu. Zumpamo zumpa l'avversario, soffitesci. Grazie sti bagnoni, Lumaruggio sempre crescissimi. Zumpamo zumpa gali, spatti a mascherrari. Visti undici bagnoni, casta meno non su dori. Senti zumpamo zumpa e tutti gli esti di bandieri. Pi Lumaruggio tutti quanti ni pazzi lucori. Cammina se mi la manfari, cantiamo l'ansieme per i giocatori. Castena la squadra è proprio speciale. Facciamo la prima per non disegnare. Dico zumpa non ti fermare. Per i giocatori mo serve calorica. Forza Maruggio ma sempre che dare di quanto manate che si sta mori. Zumpamo zumpapani, primula li cosci. Brazza lu vicino, topu cano, lucano sci di gu. Zumpamo zumpa l'avversario, soffitesci. Grazie sti bagnoni, Lumaruggio sempre crescissimi. Zumpamo zumpa gali, spatti a mascherrari. Visti undici bagnoni, casta meno non su dori. Senti zumpamo zumpa e tutti gli esti di bandieri. Pi Lumaruggio tutti quanti ni pazzi lucori. Papani, primula li cosci. Brazza lu vicino, topu cano, lucano sci di gu. Zumpamo zumpa l'avversario, soffitesci. Grazie sti bagnoni, Lumaruggio sempre crescissimi. Zumpamo zumpa gali, spatti a mascherrari. Visti undici bagnoni, casta meno non su dori. Senti zumpamo zumpa e tutti gli esti di bandieri. Pi Lumaruggio tutti quanti ni pazzi lucori.